Senti, era quello che volevo sapere da te. Tu sei una tedesca, appunto bavarese, poi a un certo punto arrivi in Italia. Ma quando sei arrivata in Italia, hai trovato gli italiani che ti aspettavi o erano diversi dal cliché che avevate in Germania? Guarda che io sono una persona che ha girato molto il mondo, non ascolto i cliché, non ascolto mai quello che mi dicono gli altri, io devo vedere, devo verificare con i miei propri occhi, anche perché non mi piace generalizzare, una cosa bruttissima. Infatti non bisogna mai generalizzare, però hai avuto qualche brutta esperienza con gli italiani? Ma ci sono, se io devo mettere su una bilancia, sicuramente le belle esperienze sono molto più ampie delle brutte. Ma che diplomatica! Che diplomatica! No, è la verità, sì, io ho sempre adorato questo popolo e non, mi difendo a spada tratta quando qualcuno parla di voi male. Guarda, sei bravissima, ma quando le tue amiche, tu abitavi ancora in Germania, le tue amiche tornavano magari dalle vacanze in Italia, ti raccontavano, oh guarda ho conosciuto questo, si è comportato in questa maniera, tu come reagivi? Sinceramente erano sempre molto entusiaste. Sì, entusiaste, certo, magari qualcuna però portava anche un ricordo, posso dire, con sé dall'Italia, no? Sì, ma queste sono, se si parla di episodi del genere, sono cose che possono accadere anche in Portogallo, in Grecia, in Spagna o in Inghilterra, quando sono legate alle vacanze. Guarda, sei veramente ecumenica, ti amiamo ancora di più in questo momento. Poi tu... No, ma è la verità, per cui io credo che quello che distingue l'Italia, non solo la bellezza del paese, ma proprio l'apertura mentale e il calore del suo popolo.